posto di guida ben impostato si adatta facilmente a persone di diversa taglia grazie alle ampie possibilità di regolazione del volante, sia in altezza che in profondità e anche quelle del sedile. Quest'ultimo è piuttosto rigido e sostiene bene, 4 stelle e mezzo. Finiture, la Jazz, come tutte le Honda, è un'auto costruita con cura. Non è lussuosa, ma sobria, razionale, pensata per un uso quotidiano e per durare a lungo nel tempo. Un bell'ambiente, comunque, dove ci si trova subito bene, 4 stelle. Comfort, a bordo della Jazz si vive bene, non c'è dubbio. Le sospensioni però trasmettono qualche scossone di troppo e il rumore del motore filtra più del dovuto nell'abitacolo, penalizzando un po' il comfort acustico, 3 stelle e mezzo. Su strada la Jazz non è un'auto sportiva, ma è comunque piacevole da guidare con un buon inserimento in curva e una tenuta piuttosto elevata. Nessun problema anche nelle situazioni critiche grazie al buon funzionamento del VSA, 4 stelle.